GR24, il sole 24 ore. La Bundesbank, la Banca Centrale Europea, non oltrepassi il suo mandato. Dopo la Francia, Monti vola in Finlandia. È morto lo scrittore americano Gore Vidal, aveva 86 anni. Calcio scommesse, Palazzi propone 3 mesi di squalifica per Conte. Fuori dall'aula i fischi dei tifosi juventini. Scontro fra gli investigatori e Ross decide di abbandonare la caccia al superlatitante Matteo Messina Denaro. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Il nuovo monito della Bundesbank, la banca tedesca, alla BCE perché non travalichi i suoi limiti, e il viaggio del premier Mario Monti in Finlandia. Tutto questo fra pochissimo. Prima invece la morte dello scrittore americano Gore Vidal, autore di romanzi, saggi, opere teatrali e sceneggiature. È morto ad 86 anni per le conseguenze di una polmonite. Suo uno dei primi libri che parlava apertamente di omosessualità, La statua di sale. Il ricordo di Elido Fazzi, fondatore della omonima casa editrice che pubblica in Italia i libri di Vidal. Gore era un grande battutista, era spiritoso, era un uomo che aveva una grande qualità in inglese, che è il wit, e quindi questi giochi di parole che gli venivano facili erano sempre grandi battute. Ed era un uomo così, io l'ho conosciuto nel tempo, siamo diventati anche amici. Oltre che parlare di libri, e noi parlavamo soprattutto di geopolitica, perché Gore aveva il pallino della geopolitica. I suoi argomenti preferiti erano sempre l'America, l'impero americano. Era un uomo che aveva una cultura sterminata e soprattutto gli piaceva raccontare gli aneddoti. Di solito dopo cena beveva un whisky o due e si metteva a raccontare. E sapeva anche imitare la voce delle persone che aveva conosciuto. Ad esempio sapeva imitare benissimo la voce di Greta Garbo e ci faceva sempre ridere tantissimo quando Gore faceva Greta Garbo. Presidente del Consiglio Mario Monti, lo dicevamo in apertura, è ad Helsinki, tanto per non perdere tempo in aeroporto, incontro con il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. Ci racconta tutto in diretta da Helsinki il collega del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Gerardo. Buongiorno a voi. Da un'ora e mezza il Presidente del Consiglio Monti è qui in Finlandia, ad Helsinki, in aeroporto, appena giunto, ha avuto un tête-à-tête con il vicepresidente e commissario per gli affari economici e monetari Olli Rehn. È stato un incontro ovviamente a 360 gradi sulle principali temi dell'attualità economica e della crisi dell'Eurozona. Subito dopo si è recato a Kerasanta, la residenza del premier finlandese Jyrki Kaitanen, una passeggiata sul lungomare. Adesso in questo momento sono nella colazione di lavoro. Ecco, una visita difficile quella di oggi in Finlandia. Sì, la Finlandia insieme all'Olanda è tra i paladini più rigidi della ortodossia della disciplina fiscale, e chiaramente prima del Consiglio europeo di fine giugno proprio il premier finlandese e anche quello olandese avevano espresso forti preoccupazioni sul rischio che i paesi del sud potessero appunto allargare e creare maggiori difficoltà all'Eurozona. Prima di venire qui Monti aveva rilasciato ieri ai corrispondenti della stampa finlandese un'intervista nella quale ha spiegato che in realtà l'Italia non chiede un bailout, un salvataggio, un programma articolato di aiuti, ma soltanto una boccata di ossigeno, sì, una pausa di respiro l'ha chiamata, e poi che dovrebbe essere anche nell'interesse dei contribuenti finlandesi capire che in realtà norme che consentano in vario modo l'acquisto di titoli di Stato di paesi come Italia e Spagna in collaborazione tra EFSF e poi l'ESM quando diventerà operativo e la BCE e anche quindi nell'interesse. Grazie a Gerardo Pelosi, che naturalmente ritroveremo nei prossimi GR24, e restiamo sui temi europei perché in attesa delle decisioni domani della Banca Centrale Europea, questa mattina nuova presa di posizione della Bundesbank. La Banca Centrale Europea non deve oltrepassare il proprio mandato, ha detto il presidente della Bundesbank Weidmann, aggiungendo che i governi sovrastimano le possibilità dell'Eurotower. Insomma, Acque agitate a livello politico, ma anche a livello di mercati. Il punto allora in diretta con la nostra Deborah Rosciani. Sì, questa dichiarazione del presidente della Bundesbank è di qualche settimana fa, ma è stata riportata oggi, circostanza che risulta anche piuttosto strana, visto che siamo alla vigilia della riunione della Banca Centrale Europea prevista per domani, nel corso della quale Mario Draghi dovrebbe preannunciare iniziative di sostegno ai mercati finanziari per calmierare soprattutto gli spread dei paesi periferici. Queste dichiarazioni hanno avuto quest'oggi un peso sui mercati azionari, perché dopo una mattinata migliore molte piazze hanno girato in negativo. C'è proprio la stessa Francoforte che adesso perde lo 0,23%, Milano meno 0,7%, rimangono in positivo invece Londra più 0,7% e Parigi più 0,41%. Lo spread fra BTP e Bund, dopo aver aperto sui valori di chiusura di ieri sui 480 punti, è sceso a 463, quindi situazione di tranquillità, e dunque queste sono state appunto le reazioni più importanti. L'euro sul dollaro rimane su quota 1,23. Oggi, tra l'altro, è attesa anche la riunione della Banca Centrale Americana, che deciderà stasera sui tassi di interesse. Ci si attende anche un annuncio, un preannuncio appunto di altre iniziative di stimolo monetario in America. I migliori titoli di Piazza Affari: Parmalat più 7 dopo i conti, tracolla invece Mediaset dopo i conti, il titolo del Biscione perde l'11%. È tutto. Grazie alla nostra Deborah Rosciani. Veniamo al processo sportivo, anzi uno dei processi sul calcio scommesse, iniziato a Roma fra fischi e insulti. Qui accanto a me Carlo Genta. Buongiorno Piera e a tutti gli ascoltatori. Sì, fischi e insulti, contestazione di una ventina di tifosi juventini questa mattina al procuratore federale Stefano Palazzi, con cori che non stiamo a ripetere, piuttosto scurridi, i soliti insomma. Oggi è il giorno delle richieste del procuratore federale e già è stata formulata la richiesta relativa ad Antonio Conte e al suo patteggiamento, squalifica di 3 mesi, ammenda di 200.000 euro. Questa è la richiesta di patteggiamento fatta per il tecnico della Juventus dal procuratore federale Palazzi. Stanno uscendo le varie richieste, ad esempio 5 punti di penalizzazione al Siena, e altre ne vedremo nel corso della giornata. Comunque scontato il patteggiamento di Conte, scontate anche le sanzioni che leggiamo ormai da giorni sui giornali. Grazie a te Carlo Genta. Ed ora a Londra, in questa sesta giornata di giochi olimpici, allora ci colleghiamo con il nostro inviato Dario Ricci. Dario. Sì, buongiorno Piera, mi dai la linea in un momento davvero particolare di queste Olimpiadi, perché pochi istanti fa è arrivata la prima medaglia d'oro britannica dal canottaggio col 200 donne. Clover e Stebbing hanno conquistato la medaglia d'oro. Pensate che stamattina il Daily Telegraph citava addirittura in prima pagina il titolo, la famosa frase di Churchill: keep calm and carry on, portiamo pazienza, andiamo avanti e sopportiamo. Ecco, questa attesa è finita e le due adesso sono in collegamento con la BBC, con i battaglioni e distanza in Afghanistan, quindi momento davvero importante. Speriamo di viverne uno invece tutto colorato d'azzurro qui dalla Lee Valley Whitewater Center, dove alle 14.15 scenderà in acqua per la semifinale di canoa slalom il nostro Daniele Molmenti, uno dei grandi favoriti per il podio. Per quanto riguarda poi le medaglie, oggi puntiamo sulla sciabola donne e su Paolo Pizzo nel torneo individuale di spada, finali tra le 20 e le 21 ora italiana. Intanto dalla piscina del nuoto arriva una buona notizia per la nostra staffetta 4x200 stile libero con Federica Pellegrini in acqua. Le ragazze hanno fatto il nuovo record italiano ed entrano in finale. Per il momento da Londra è tutto, Piera. Grazie al nostro Dario Ricci, che naturalmente anche oggi pomeriggio continuerà a raccontarci le emozioni olimpiche. Poche emozioni in realtà in questi ultimi giorni da parte dell'Italia, anche se i nostri azzurri si stanno facendo in qualche modo onore negli sport di combattimento e dintorni. È un tormentone che gira su internet e nelle chiacchiere da Bass Sport, che ci consola, almeno parzialmente, dai buchi nell'acqua dei nostri nuotatori e dagli infiniti e stucchevoli dibattiti sul tramonto della Pellegrini. Il succo è questo: noi italiani alle Olimpiadi siamo fortissimi, ma per il momento solo negli sport più bellicosi. Fortissimi nella scherma, con le carabine, con le pistole, nel tiro con l'arco. Appena vediamo un corpo che si muove, una sagoma, un bersaglio, qualcosa da infilzare o impallinare, diventiamo subito una spietata macchina da guerra. Certo, qualche colpo, per esempio nel fioretto maschile, lo abbiamo perso, ma se poi vediamo quanto hanno vinto le ragazze, il bilancio ci sorride. Diciamo che bisogna migliorare la quota azzurra. In attesa che arrivi qualcosa anche dal pugilato, ma Roberto Cammarelle ci fa ben sperare, gli italiani proseguono in questo trend bellicoso e militaresco. Chiunque ci voglia invadere è avvisato. Rischia grosso. Il problema è che non ci vuole invadere nessuno. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sarà libero entro due giorni il carabiniere italiano Alessandro Spadotto, rapito domenica a Sanaa in Yemen. Lo ha detto stamattina il sedicente capo dei rapitori in una telefonata all'agenzia yemenita Mara Press. Non ho nessuna richiesta da fare all'Italia. Ali Nasser Raid Khan, sedicente capo dei rapitori del carabiniere Alessandro Spadotto, ha telefonato all'agenzia yemenita Mareb Press e ha annunciato che libererà l'italiano entro un paio di giorni, senza contropartita da parte italiana. Il carabiniere ha aggiunto: l'uomo sta bene, ha telefono e internet ed è provvisto di ogni comodità. In effetti, con un messaggio telefonico inviato alla sua ragazza, Spadotto ha rassicurato sulle sue condizioni. Sarebbero in corso quindi mediazioni tra esponenti tribali per risolvere la questione. Le richieste formulate dal rapitore sono l'annullamento del divieto di espatrio, un risarcimento economico e la restituzione delle somme di denaro che gli sarebbero state sottratte durante la prigionia. Raid Khan era stato arrestato a gennaio scorso con l'accusa di aver ucciso alcuni militari governativi. Il carabiniere italiano è stato rapito domenica in una zona commerciale di Sanaa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Procura di Palermo ha convocato nuovamente l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per il prossimo 13 agosto per essere sentito come testimone nell'ambito dell'inchiesta su Marcello Dell'Utri, indagato per estorsione proprio nei confronti dell'ex premier. E restiamo a Palermo perché a causa di beghe fra gli investigatori sarebbe stata interrotta la caccia al superlatitante Matteo Messina Denaro. Il superlatitante trapanese di Cosa Nostra potrà dormire sonni tranquilli. Nessuno gli darà più la caccia, almeno per ora. I carabinieri del ROS hanno infatti deciso di abbandonare le ricerche di Matteo Messina Denaro, una decisione senza precedenti, risultato di un duro scontro tra PM e che arriva dopo settimane di polemiche. Il procuratore aggiunto Teresa Principato, che coordina le ricerche del boss, aveva denunciato che le indagini del ROS trapanese sarebbero state stoppate da un blitz della polizia coordinato da altri PM della procura e avvallato dal capo dell'ufficio Francesco Messineo. Al centro dello scontro c'è Leo Sutera, storico esponente delle cosche agrigentine. Da due anni era intercettato dai carabinieri per spiare i suoi incontri con boss trapanesi e palermitani. Ecco perché Teresa Principato aveva chiesto con insistenza a Messineo di rinviare il blitz della polizia che avrebbe decapitato la cosca di Sutera, ma l'operazione con 49 arresti scattò comunque il 26 giugno. Seguirono polemiche infuocate tra procure, di cui la decisione dei Rossi di richiamare i suoi cacciatori di latitanti, per cui era previsto un budget di spesa di quasi un milione di euro l'anno. Senza più l'indagine sulla Sutera, l'investimento è stato ritenuto eccessivo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Incoraggiamento al governo Monti a procedere nell'azione riformatrice, impegno concreto dei partiti al risanamento dei conti pubblici, riforma condivisa del sistema elettorale non più rinviabile, come richiesto dal capo dello Stato. Sono solo alcuni dei punti della bozza del patto per l'Italia di Confindustria, ABI, ANI, Alleanza Coop e Rete Imprese, che verrà presentato nel pomeriggio, che avremo modo naturalmente di presentare anche a voi che ci siete in ascolto. Sinistra e Libertà è disponibile a lavorare con il Partito Democratico per costruire la coalizione del futuro anche insieme all'UDC. Lo ha detto Nichi Vendola dopo aver incontrato il segretario del PD Bersani. Porte aperte dunque anche ai moderati, mentre sembra chiusa la possibilità di un futuro con Italia dei Valori di Di Pietro. Le sue continue polemiche, ha detto Vendola, e il suo propagandismo esagerato rischiano di portarlo alla deriva. Ed ora gli incendi che stanno creando problemi in varie zone d'Italia. Nel centro e sud Italia non faceva così caldo dal 1998, dicono gli esperti, e l'effetto dell'anticiclone africano continuerà a farsi sentire per 4-5 giorni. E mentre il Po è in allarme secca, nel resto del paese ci si preoccupa per gli incendi. Solo ieri sono stati 22 i casi in cui, a supporto delle squadre di terra, sono dovuti intervenire elicotteri e Canadair, soprattutto in Lazio e Sardegna, ma anche in Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Piemonte. La situazione resta seria nella capitale, dove la cenere provocata da roghi di sterpaglie è scesa persino sul centro. Oggi i vigili del fuoco sono impegnati a Roma per il terzo giorno consecutivo. Stanno spegnendo ancora focolai a Monte Mario, ma roghi si segnalano anche all'estrema periferia, Sette Bagni e sulla Cassia Bis. Ieri, nella capitale, è stato necessario evacuare case e persino una clinica. Fiamme minacciose anche in Sardegna. Ieri hanno lambito l'aeroporto di Olbia, che è rimasto chiuso per 3 ore. Intanto a Ravenna, dove a luglio un incendio ha distrutto la bella pineta del Lido di Dante, ci si rimbocca le maniche. Il sindaco Fabrizio Matteucci ha indetto una giornata di lutto civico e ha aperto un conto corrente. Obiettivo? Raccogliere con il contributo di tutti il necessario per far rinascere i 65 ettari andati in fumo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.